Buonasera, buonasera. Io se c'è una cosa che ho capito da questa intervista è che le mamme sono tutte cenerentole, giusto? Sì, tra l'altro sanno fare 3.000 cose insieme, cioè una cosa incredibile. Posso sottolineare, non c'è stata una mamma che stira, perché molte sono fan del se stendo bene non c'è bisogno di stirare. Pia, tu stendi bene o stiri? Io stendo molto bene. Ah. Benvenuta famiglia Rieta, vogliamo conoscervi un pochettino meglio. Grazie di aver accettato di mettere un po' a nudo quella che è la vostra famiglia, le vostre storie, grazie per averlo fatto. In modo che tutta la Chiesa possa conoscervi meglio, dite il vostro nome semplicemente, poi il cibo che vi piace di più mangiare. Mi chiamo Consuelo, dico le patatine. Io mi chiamo Marianela e amo la pasta al pesto. Io mi chiamo Ivan e mi piace molto il lomito. Il lomito è un panino argentino. Io mi chiamo Francisco e a me piace l'asado, che è una carne cucinata in modo speciale in Argentina. Come darti torto. Io mi chiamo Victoria e mi piacciono i cannelloni con gli spinaci. Io mi chiamo Pia e adoro le empanadas argentine. Va bene, non vediamo l'ora di venire a casa vostra, così possiamo assaggiare tutte queste cose buonissime. Se vi permettete, io farei un po' una chiacchierata con le due più giovani di casa, va bene? Voi va bene? Vabbè, se non vi va bene a noi. Allora, Consuelo e Marianela, mi faccio un po' più vicina a voi. Io ho bisogno di sapere alcune cose della vostra famiglia che solo voi mi potete dire. Va bene? Allora, chi è il più chiacchierone della famiglia? Vabbè, per me è Marianela. E vabbè, allora, il più silenzioso chi è? Consuelo. È il più veloce a mettere in ordine quando mamma dice pronto, dovete ordinare. Chi è il più veloce? Vicky. Ah, buono, buono. È il più forte? Francisco. Ah. È il più coraggioso? Papà, ovviamente. Io però devo dire che anche Marianella è un po' coraggiosa, sì. Perché l'ho visto fare certi salti che insomma sono molto da bambina coraggiosa, è vero? Sì. Va bene, no, nessun'altra domanda, ne volete un'altra di domanda? No? Sì, allora ve la faccio lo stesso, un'altra domanda. Il più severo, quello che dice no, adesso bisogna fare così. Non lo sapremo. Non lo sapete? Va bene, non fa niente. Allora, vogliamo parlare un po' con mamma e papà o continuiamo noi a parlare? Vabbè. Ah, ok, va bene. Allora, parliamo un po' con mamma e papà. Parliamo con mamma e papà. Beh, innanzitutto, qui è presente una famiglia incredibile, però non perfetta. Perché tutte le famiglie fanno degli errori. Il pastore parlava della famiglia di Abramo e della sua discendenza. La Bibbia non ci ha mai detto o coperto delle cose riguardo il peccato di qualcuno. Se vediamo la vita di Abramo, ha fatto degli errori anche lui. Però si è trattata di una famiglia incredibile. E io vorrei chiedere a voi come famiglia, avete un motto, un qualcosa che vi contraddistingue, un evento che celebrate, un qualcosa che ci fa capire che la famiglia Rieta è questa qui. Questo è uno. Va bene, noi abbiamo deciso che di scegliere un giorno all'anno perché ormai una parte dei nostri figli hanno tanta differenza di età con le altre due. Prima, siccome siamo stati tanto tempo fuori dal nostro paese, lontani dalla nostra famiglia, ogni mese c'era un giorno da festeggiare qualcosa. In questo festeggiamento, ho detto bene, celebravamo le cose belle che avevamo vissuto nel percorso di quel mese. Poi, man mano che sono cresciuti i figli, abbiamo dovuto fare soltanto un giorno all'anno, perché poi se Vicky e Franci qualche volta vanno lontano, questo giorno però lo devono sempre consegnare alla famiglia, conservare per stare tutti insieme. E ora che siamo nel cammino del Signore da anni, però non da tutta la nostra vita, quel giorno ci piace riconoscere la grazia di Dio e la sua presenza nella nostra famiglia nel percorso di quell'anno. E quel giorno è il nostro Blue Day, perché è il colore che piace a tutti noi, è un giorno nel quale facciamo qualcosa speciale, che ci piace mangiare a tutti e facciamo delle cose particolari che rappresentano la nostra famiglia. Che bello! Io penso che ci sono poi proprio cose come questa che ci vanno a contraddistinguere come famiglia, e penso che ogni famiglia può andare a individuare qualcosa nello specifico che caratterizza la famiglia stessa. E poi secondo me famiglia è anche quel team che assieme riesce a superare delle difficoltà. E quindi non esiste un modello perfetto di famiglia, ma quando parliamo di famiglia parliamo di delle persone che assieme decidono di portare avanti un'avventura insieme. In questa avventura ci sono delle situazioni, delle sfide che si vengono a porre di fronte. Pensando a voi, voi venite dall'Argentina. Dall'Argentina vi siete poi spostati in Sicilia. E poi a un certo punto, e qui c'è un piano divino sicuramente in tutto questo, vi trovate a rifugio a Ruvoli Puglia. E sicuramente non è stato facile affrontare tutto questo, ma una famiglia incredibile riesce ad affrontare tutto questo. Quindi io vorrei chiedere innanzitutto a Ivan e Pia, quali sfide avete affrontato in quest'ultimo periodo venendo qui a Ruvo, e poi sicuramente anche ai figli maggiori, quindi Francesco e Vicky, il vostro punto di vista, cioè quello che avete vissuto e come avete affrontato tutto questo. Tocca a me. Allora, come sfide che abbiamo vissuto nella nostra vita da quando siamo insieme, e da quando siamo arrivati davanti dal Signore, e come famiglia è portare avanti la sua parola, Deuteronomio 6, 5, 6 e 7, il versetto, dove ci comanda di istruire i nostri figli ogni momento della nostra vita, mentre camminiamo, mentre lavoriamo, mentre anche scherziamo e siamo tutti insieme. Essere tutti insieme è costruire la famiglia nei comandamenti del Signore. E noi abbiamo preso forte questo dall'inizio. Questo qui ci ha dato il coraggio di andare avanti in ogni situazione, in ogni sfida, che certamente a volte non sapevamo che cosa fare, ma la Bibbia ci insegna dove andare a cercare l'aiuto. E questo è lo che abbiamo fatto dall'inizio, quando siamo arrivati a Gangi, in Sicilia, e essere più forte come famiglia, non conoscendo nessuno in quel posto. Eravamo noi da soli, non avevamo chiesa dove andare, e allora ci trovavamo soli in quel posto e dovevamo continuare. Prendendo forte Deuteronomio, noi abbiamo istruito i nostri figli ogni settimana, pregavamo insieme per ogni situazione di ciascuno, e abbiamo insegnato anche a loro di fare questo. non lasciavamo mai di pregare, non lasciavamo mai di darci l'appoggio entrambi su questa situazione, non lasciamo mai solo, perché il nostro Padre non ci lascia mai solo, e questo è lo che abbiamo imparato da Dio. Le sue promesse di essere con noi fino alla fine, ogni giorno, è questo che ci fa andare avanti. E questo come famiglia lo abbiamo preso forte in Sicilia, perché eravamo da soli. Allora, e ogni volta che facevamo di istruire i nostri figli, avevamo pure il culto la domenica nella nostra casa, eppure venivano delle persone che volevano sapere anche per curiosità che cosa facevamo, però venivano, e siamo sicuri che il Signore ha seminato in loro la parola. Non torna mai a vuoto, e quindi arriverà un giorno in che anche loro arriveranno al Signore. Allora, abbiamo preso la sfida come famiglia di venire qui a Ruvo. C'è stato veramente, il Signore ci ha parlato, non solo a noi, sino anche qui. E questo ci ha dato sicurezza, la stessa sicurezza quando noi siamo usciti dall'Argentina. Perché? Perché Lui ci ha dato la sicurezza di essere con noi ogni giorno e andare ovunque noi andremo. Va bene, hai detto tutto, però in questo io voglio dire che non è, cioè questo non è stata una cosa facile, non è stata una cosa che ci ha fatto perfetti né niente, no? Perché anche noi in tutto questo percorso abbiamo vissuto la sfida forte di pensare ai nostri figli, perché noi abbiamo la chiamata del Signore, ma i nostri figli ci accompagnano, non hanno la chiamata dei suoi genitori, soltanto loro ci accompagnano, e noi dobbiamo curare il loro cuore e pregare continuamente per loro, così loro capiscono che soltanto stiamo dando un passo di ubbidienza, il resto lo fa il Signore. Dopo i suoi prossimi passi li guiderà Lui, ma non questo in un modo religioso, se no facendo capire a loro che noi siamo, come abbiamo cantato oggi, noi siamo liberi in Cristo. Il Signore ci vuole liberi anche per relazionarci con Lui. Ci vuole naturali, spontanei. Io mi arrabbio a volte, parlo con il Signore e dico grazie, questo soltanto mi mancava. Vabbè, il Signore conosce il mio cuore, è inutile che io faccio finta di essere una diversa da quella che veramente sono. Dico, mi sento con questa libertà di poter parlare al Signore con il mio vero cuore, come Lui sa che ai nostri figli abbiamo sempre insegnato anche questo, di parlare al Signore anche con più libertà con la che parlano con noi, perché Lui sa tutto e Lui accetta anche i nostri sbagli e ci chiama di nuovo alla strada giusta e ci conduce, ci aiuta, è tutto per noi. La vita senza il Signore non sarebbe possibile, non sarebbe la vita, perché Lui è la vita in certo modo, perciò è questo, con naturalità, non con una cosa rigorosa. Sì, lo stanno passando così, non vogliono parlare. Va bene, allora, io il trasferimento dall'Argentina in Italia non l'ho vissuto molto bene. Avevo 15 anni, quindi ero... ero molto ribelle in quel buon periodo e cercavo di far sentire in colpa mio fratello di essere d'accordo con i miei, quindi gli dicevo vedi che mi tradisci, non sei mio fratello così, quindi mettevo anche in difficoltà lui e infatti ci ho messo anche un bel po' a fare amicizia, c'è un bel po' di anni a fare amicizia qui in Italia. Lì ha 45 anni, anche se non lo avete capito. Va bene, poi però mi sono aperta un po' di più e sono stata grata delle amicizie che Dio ha messo nella mia vita, perché erano anche molto curiose, quindi quando tipo facevamo il culto a casa loro venivano, o una volta al mese venivano a mangiare qualcosa di argentino a casa, quindi condividevo anche un po' di tempo con loro. Quando ci siamo trasferiti invece qua, io ero all'inizio ero un po' tipo, non lo so, perché siccome non avevamo una chiesa e io ho rapporti nella chiesa, ero un po' chiusa con i rapporti della chiesa, e, cioè non lo so, ero un po' pensierosa, non mi piaceva l'idea. Poi a maggio siamo venuti qua, li ho conosciuti un po' di più e ero felice di venire qua, sono ancora felice di stare qua. Niente, Francisco non vuole proprio parlare. No, vabbè, per il fatto del cambio Argentina-Italia, all'inizio per stare un po' accompagnando lei ero contrario ai miei genitori, infatti per un bel po', cioè, abbiamo lottato. Per dire. Poi gli hanno offerto un cavallo e ha detto di sì. Che alla fine il cavallo non ce l'ho ancora. Aspetta, Pastore Pinuccio, possiamo procurare un cavallo? L'ho trovato io, tranquillo. Mi sono perso. Ah. In pratica all'inizio ero contrario, ma tantissimo, quanto a lei, eravamo proprio così, perché cioè, sembravano loro due contro noi due, così, proprio tesi. Poi mi hanno detto, cioè, ho visto che comunque erano i genitori, io ho 13 anni, che dovevo fare? Quindi ho detto, vabbè, uniamoci a loro, ho detto. Quindi ho detto, vabbè, forse non è così male, forse c'è un qualcosa. Vedevo la situazione comunque dell'Argentina che non era molto buona, quindi ho detto, se dicono che là è meglio, cioè, mi fido di loro. Poi Dio, cioè, aveva chiamato i miei genitori qua, ho detto, vabbè, Dio li ha chiamati, chi sono io per contraddire Dio? Quindi ho detto, accettiamo e andiamo. E lei si è messa contro di me. E io invece sono arrivato in Italia tutto contento, ho detto va bene, arrivo, nuove amicizie, così. E l'inizio è stato così, cioè è stato bello, l'inizio perché comunque avevo fatto un paio di amicizie, così. Però Sicilia, dove eravamo andati noi, era un paese piccolo, quindi mentalità chiusa. E quindi stavano alcune persone razziste, eccetera. Quindi io che ero arrivato con tutta la gioia, così facciamo amicizie, tutto lì, hai preso il palloncino. Ecco l'ago, boom. E io dopo quello, cioè, sono stati alcuni anni un po' abbastanza difficili. Infatti, quando stavamo per venire qua, mi ero giusto un po' ambientato, diciamo un po' così, avevo fatto un po' più di amicizie rispetto a prima. Infatti, io quando sono arrivato ho fatto la terza media, che ho dovuto affrontare l'esame di terza media con il francese da zero, che non l'avevo mai fatto. E quindi ho fatto l'esame, cioè l'ho superato. Poi tutti quelli che conoscevamo a pregare per chiedere che io superassi quell'esame. E poi il primo anno di nuovo brutto, il secondo pure brutto, i primi tre anni, cioè a scuola più che altro, in amicizia eccetera, è stato brutto. E poi al terzo anno è stato un po' così, più bello, e il quarto è andato molto più bello rispetto agli altri. E poi siamo venuti qua, e lì c'è, ci avevano proposto di venire qua, vabbè proposto, ci avevano detto di venire qua, e quindi all'inizio c'era un po' così, sempre per il fatto della chiesa, che io pure come lei un po' così, quindi, e quando siamo venuti la prima volta, cioè a me è piaciuto un sacco, e quindi avevo detto va bene, dai, è bello, una nuova esperienza, così. Io ero un po' indeciso perché cioè adesso sto facendo il quinto anno, quindi ho detto, avevo già iniziato con una classe, almeno la finivo, la superiore con quella classe, però ho detto, vabbè, alla fine. E quindi quando sono arrivato qua, ho dovuto iniziare tedesco da zero, per l'esame, e quindi io tipo, perfetto, francese prima, era tedesco, e poi. E quindi, però, no, a parte il tedesco, è tutto bene. È tutto perfetto, tutto bello, quindi, no, mi trovo abbastanza bene qui, quindi mi piace. E che scuola stai facendo adesso? La ragioneria turistica. E anche, puoi raccontarci, vabbè, anche tu che cosa studi, perché, insomma, è importante. Io studio all'università a Lecce. Dance, disciplina dell'arte, musica e spettacolo. Comunque, Francisco, non volevi parlare, poi hai monopolizzato vabbè, io tutto. È per quello che non volevo parlare, una volta che mi dai il microfono non mi fermo. Allora, Marianela, segna, la prossima volta il chiacchierone è Francisco, va bene? Ok. Che bello, le cose che avete condiviso, parla anche di un cuore anche saggio da parte dei genitori nell'ascoltare Dio, ma anche un cuore molto ubbidiente da parte dei figli, in modo particolare per voi più grandi, di accettare quella che è la chiamata di mamma e papà, come giustamente diceva Pia, la chiamata dei genitori, e i figli accompagnano in attesa di quella che poi sarà la loro chiamata. Però in tutto questo c'è stato comunque il vostro buon cuore nell'accettare, anche essere sottomessi ai vostri genitori, a questo vi fa solo onore. Quindi grazie di aver accettato, così ora siete parte di noi e della nostra famiglia, e siete famiglia con noi. Avevate già un po' iniziato ad accennare al fatto di pregare insieme ai vostri ragazzi, di insegnare in ogni momento, quindi non prendere un momento specifico, ma avere proprio qualsiasi occasione come spunto per insegnare ai vostri figli le cose di Dio e l'educazione in generale. C'è qualcosa di pratico che proprio fate, perché ci piace condividere, poi nella condivisione c'è ricchezza, c'è crescita, quindi arricchiti anche noi, nell'aiutare loro a mettere Dio nelle circostanze di ogni giorno, quindi nella vostra vita normale, come lo coinvolgete Dio? Quindi proprio in modo pratico, se ci sono degli esempi, ne avete già fatti alcuni, possiamo un po' approfondire su questo, perché io sono molto interessata. Va bene. Giusto oggi, per esempio, siamo andati con lui. Lui è arbitro, e questa mattina ha arbitrato una partita abbastanza difficile, e io ero lì, l'ho accompagnato, ero lì. Prima di andare lui era nervoso, perché certamente li osservano, e quella partita era un osservatore, c'era lì. Allora lui era nervoso, ansioso, nervoso è un'altra cosa, scusa, agitato. E allora ho cominciato a parlare, non le ho detto direttamente preghiamo per questo, ma direttamente le ho parlato di fidarci a Dio. E sempre nella macchina parliamo su questo, ogni situazione che lui vive, sempre cerco di centrarlo nella parola di Dio, in un modo semplice, con gli esempi della Bibbia. E sempre l'incoraggio di credere in Dio, di prendersi forte delle sue promesse, perché Lui è fedele. È l'unica cosa che noi abbiamo per superare tutte queste prove e questa situazione. E dopodiché ha finito la partita, non era molto contento come è stata la partita, veramente molto forte era la partita. E nessuno era contento dei giocatori, nessuno era contento le sue mister, diciamo, tutti si lamentavano. E allora c'era l'osservatore, e questo le prendeva ancora più ansia a lui di vivere questa situazione. Allora io pregavo, era sopra a vederlo, e pregavo per questa situazione. E le chiedevo al Signore di dargli grazia, della sua grazia per portare avanti questo e trovare pace. E allora è finita la partita, non era contento ancora, e non lo è ancora. Ecco. Però va bene, abbiamo parlato per strada, al ritorno a casa, su questo, che lui deve fidarci di Dio, perché anche se lui ha sentito delle parole che l'osservatore le ha detto, da come lui ha gestito la partita. Io le ho detto: non hai dovuto cancellare niente, hai continuato e tutti sono andati contenti a casa, i giocatori, i mister. Non ti preoccupare delle parole, impara, prendi, impara. E dopo tu vedrai quello con un'altra partita, come gestirla d'accordo a quello che hai vissuto. Ma non te la devi prendere con te. Non ti devi scoraggiare. Posso? Ho il tempo. Io voglio aggiungere a questo che noi dobbiamo anche imparare a dare un passo indietro con loro che sono più grandi, perché noi, come diceva Ivan, da quando siamo nella via del Signore, istruiamo, troppe vocali insieme sono difficili. Aiuola è da poco che l'ho imparato a dire. Li istruiamo nella parola del Signore, nella fede nel Signore, nel camminare nella fede nel Signore, però dopo dobbiamo dare il nostro passo indietro per loro conoscere personalmente il Signore, perché fino a un punto loro camminano insieme a noi e questo è molto comodo. Però arriva un momento che loro devono prendere le loro decisioni di come relazionarsi con il Signore, come vedere loro nella loro vita la fedeltà del Signore, la grazia, la misericordia, riconoscere il Signore come quello che abbiamo bisogno di avere ogni giorno accanto. E quando parliamo con loro, come stai? Hai un esame? Vicky quest'anno affronta di essere lontana dalla famiglia tutta la settimana, la famiglia affronta di essere senza Vicky, che è la che mette a posto tutto in poco tempo. E tante altre cose, e in questo noi vediamo, viviamo oggi la grazia di Dio nelle loro vite. Loro sbagliano, noi sbagliamo, le piccole anche loro sbagliano, tutti abbiamo tanti errori, tanti difetti, perciò siamo qui e non siamo là, perché ancora abbiamo un percorso da fare con il Signore, anche se noi abbiamo una chiamata, questo non significa che noi siamo speciali o che siamo diversi, la nostra vita è diversa, la vita di ognuno di noi è diversa davanti al Signore e questo ci permette di vedere ogni giorno la sua grazia in noi. E loro che sono le piccole che osservano tutto il tempo i suoi fratelli, vedono anche loro come il Signore li sta vicino, è fedele. Noi abbiamo, in ogni cambiamento abbiamo vissuto il tempo personale del cambiamento di ognuno e non sono mai stati sincronizzati questi momenti, sono stati prima uno dopo l'altro, quando sembrava che passava spuntava un altro e così era, ogni mese era tutto un alto e basso continuo. E soltanto la grazia del Signore ci ha sostenuto. Quello che abbiamo cantato oggi, la parola di Giosuè che dice che lui sarà con noi ovunque andremo, quella è stata la parola che il Signore ci ha dato quando ci ha parlato 9 anni fa della nostra chiamata alle missioni. E noi a questa parola la viviamo ogni giorno. Lui è con noi, abbiamo affrontato delle difficoltà, delle rinunce. Noi abbiamo dovuto rinunciare a tante cose, come tanti di voi sicuramente dovete rinunciare a tante cose. Ma il Signore sa quanto significa per noi quella rinuncia e riempie quel vuoto con quello che è il suo progetto per noi, con quello che sono i suoi piani per noi, che come dice lui sono sempre molto più grandi di quelli nostri. E noi possiamo incoraggiare le famiglie a dire: state tranquilli, non mollare, questa è una sfida molto molto forte per noi. Non mollare, perché abbiamo affrontato situazioni molto difficili, molto dure, più che altro nella vita dei nostri figli. E la sfida era non mollare, perché potevamo dire basta, questo è troppo difficile, torno in Argentina dove c'è tutta una famiglia che forse è lì stiamo. Ma noi abbiamo deciso non mollare, avere fede nella promessa del Signore. Le sue promesse sono vive veramente nella nostra vita. E quello era che mi stai zitta? Era il bottone rosso. Non mollare, Pia, non mollare. Non molliamo. Anche adesso. No, e per loro è una testimonianza questo, che noi anche nelle difficoltà continuiamo avanti per fede, non per forza, non siamo forti. Noi siamo deboli e siamo fragili e il forte è Lui in noi, è Lui che cammina davanti a noi. Di solito detto dai genitori, cercano di dire ai genitori di non mollare, però detto forse da uno dei figli è diversa la cosa. Con Fran, lo dico perché loro sono ancora molto piccole, e diverse volte vedevamo anche come loro non mollavano con noi, cioè perché noi non eravamo forse molto dentro la chiesa o non davamo conto agli insegnamenti che loro ci davano, comunque eravamo un po' lontani. E a volte vedevamo anche loro molto tristi perché cioè, si stancavano, non sapevano, si sentivano un po' impotenti, perché ovviamente loro non possono fare più di pregare o comunque dirci ci sediamo, leggiamo qualcosa. Però posso dire che ora noi siamo qua, quindi significa che Dio in qualche modo ci ha parlato e c'è un tempo. C'è un tempo per stare lontani e c'è un tempo in cui Dio ha il modo giusto per parlarci. Infatti a me, per esempio, ha parlato in particolar modo nell'incontro che abbiamo avuto qualche settimana fa. E quindi sì, questo. A volte sembra che siete stanchi, genitori, però Dio ha il momento giusto, il modo giusto per toccare i figli. Quindi... Esatto, non mollate. Grazie, grazie. Vuoi aggiungere qualcosa? No? Avete un po' già parlato di questo. Mi veniva da pensare un po' alle league dei supereroi, no? A volte c'è un nemico troppo grande da combattere e quindi i supereroi si mettono insieme perché no, l'unione fa la forza, quindi più superpoteri insieme per sconfiggere quel nemico. Però a volte nascono delle incomprensioni, benché l'obiettivo sia comune, quindi sconfiggere il malvagio, però a volte le incomprensioni capitano e questo capita in tutte le famiglie, quindi immagino anche nella vostra. C'è qualche episodio in particolare che ci può aiutare a capire come a superare queste difficoltà? Abbiamo già un po' parlato della... voi rappresentate una famiglia spettacolare perché avete tutte le generazioni di figli, diciamo, dai più piccolini ai più grandi, quindi sapete tutto, sapete dell'adolescenza, sapete dell'infanzia, sapete da quasi dell'età adulta, quindi... Forti di questo sapere, fatecelo sapere anche a noi. Che cosa si fa in queste situazioni? Come si superano i conflitti? Se sono capitati, se sono successi già nel passato, se stanno succedendo, come si superano? Difficile la domanda. Allora, ognuno è diverso. E anche se possiamo vedere da piccoli a grandi, adolescenti, all'università, ma ognuno lo ha vissuto in modo diverso. E quindi non c'è una cosa che posso dire, questa è la soluzione. Solo una è la soluzione, che è pregare, lasciare tutto nelle mani di Dio, insegnarle a loro giustamente questo, E poi una cosa importante è accompagnando a ognuno dei nostri figli, anche se non sono d'accordo e non siamo noi d'accordo di quello che hanno scelto, ma stare lì perché, come ho detto all'inizio, è il nostro Padre che è nel cielo, è sempre con noi, anche se sbagliamo, se non le rivolgiamo la parola, se siamo arrabbiati con Lui, anche se non siamo d'accordo con Lui, lo stesso Lui rimane lì accanto a noi e aspetta che noi parliamo, che noi lo cerchiamo. Allora, e questo, avendo questo esempio da Dio che fa con ognuno di noi, noi cerchiamo di farlo con i nostri figli, di stare lì accanto a loro, quando avranno bisogno, ci cercheranno e saremo tutti insieme a cercare Dio. Bellissimo, bellissimo. È venuta fuori proprio una parola di incoraggiamento che poi lasciamo alla Chiesa oggi, ed è proprio quella di non mollare nelle difficoltà, di non mollare tenendo sempre viva quella fede in Dio, sapendo che Dio vi sta portando avanti. E noi vi ringraziamo per questo bellissimo messaggio di incoraggiamento che ci avete portato, però ci dovete lasciare, siccome siete una famiglia di supereroi, così come tutti noi, ci dovete lasciare con un gesto tipico, mettetevi in posa, fate qualcosa, cioè voi che supereroi siete, fatecelo vedere, alzatevi in piedi, mettetevi in posa, fate qualcosa. Va bene, puoi fare tutto. Un po' di vento, no? Facciamo una pose. Fai forte. Dai. 1, 2, 3. Oh, che bello. Allora, Chiesa, facciamo un applauso, ma non ce ne usciamo con un applauso. Ci alziamo tutti in piedi. E anche noi ci dobbiamo mettere in posa da supereroi, va bene? Vediamo quanto siamo bravi. E dovete rimanere fermi finché non sale il pastore. Al mio tre. 1, 2, 3. Bene, vogliamo fare un grosso applauso alla famiglia Arieta. Grazie per questo tempo. Possiamo rimanere in piedi. Quello che vogliamo fare questa sera, ed era, ci stava particolarmente a cuore, è benedire e pregare per tutte le famiglie. Ogni famiglia qui rappresentata, questa sera vogliamo che torni a casa con una benedizione, con una ricchezza acquisita attraverso la preghiera, perché crediamo che c'è potenza nella preghiera. Amen. Quindi siete d'accordo con me? C'è potenza nella preghiera e tutto si semplifica in realtà. A volte ci chiediamo come possiamo avere delle famiglie sane, certamente non le possiamo avere perfette, però le possiamo sanificare attraverso la presenza di Dio e quindi vogliamo pregare e piuttosto che fare una preghiera mia così per ciascuno di voi che sembra un po' anche troppo distante e impersonale, vogliamo pregare proprio individualmente per ogni famiglia e ho chiesto ad alcuni ministri della nostra Chiesa e servi fedeli di aiutarmi a pregare per tutte le famiglie e intendo proprio i nuclei familiari che ci sono qui, che possono essere composti da coppie o da famiglie anche intere, ma mi riferisco anche a quelle persone che sono venute qui e non hanno nessun componente della propria famiglia con sé. Noi vogliamo benedire ogni famiglia rappresentata e quindi noi vogliamo credere che dalla preghiera che vivremo in questo tempo la benedizione fluirà da questo luogo, da questo incontro a tutte le case rappresentate. Quindi anche se sei l'unico membro di una famiglia e sei qui da solo, noi vogliamo pregare con te per la famiglia e abbiamo delle postazioni di preghiera. E vi chiediamo tutti di partecipare, abbiamo tempo per farlo perché abbiamo 5 postazioni diverse, avremo 3 coppie qui davanti che segnaliamo con i cartellini. Ok, qui avanti è molto semplice, ok, però abbiamo fatto i cartellini, li utilizziamo, e quindi potete andare da Stefano e Angela, Saverio ed Enza, che verranno qui avanti, anche Domenico e Natali, ma abbiamo anche due postazioni, una nell'atrio, e ci saremo io e Giorgia a pregare per famiglie e rappresentanti di famiglie, nell'atrio, quindi lì dove c'è la libreria proprio all'ingresso, e poi avremo un'altra postazione lì a quell'angolo, l'angolo alla mia sinistra in fondo. Quindi vorrei chiedere a chi pregherà di prendere postazione e di far vedere il proprio cartello, e vorrei chiedere a tutti noi di organizzarci in famiglie, nuclei familiari. Non andiamo fino alla terza e la quarta generazione, ok? Rimaniamo nel nucleo familiare più stretto, e potete venire qui e pregheremo insieme. E ripeto, vogliamo pregare anche per tutti coloro che sono soli a rappresentare la propria famiglia, e sarà un modo anche per pregare per parenti, genitori, fratelli e sorelle, magari non ancora credenti. Vogliamo lottare in preghiera affinché Dio possa benedire le nostre famiglie. Vedete i cartelli? Quindi abbiamo qui tre famiglie, qui tre coppie, e poi lì in fondo con Rino e Anna, e con me e Giorgia al lato d'ingresso. Quindi possiamo già spostarci e ricevere preghiera.